sentono cazzeggiare. L'ora del complotto, episodio 12. Buongiorno, buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Ciao bellezze. Indovinate chi c'è dal vivo, in presenza, niente popò di meno che Socrate, direttamente dalla Grecia. Cazzo, avrei detto Berlusconi. E invece no. Comunque è strano fare questa cosa live con te di fronte e non con uno schermo che ci separa. Vero, anche perché adesso devo guardare il microfono e non riesco a guardare te. Invece... E in più abbiamo le mascherine, cosa che quando facciamo... No, vabbè, ma le togliamo se vuoi. Va bene, dai, senti, togliamoci questo sfizio. Sputacchiamo un po' nel microfono, tanto il pop filter c'è. Il pop filter c'è? Il pop filter. Io ho rischiato giusto di prendere il Covid l'altro giorno, quindi direi che oramai la mia dose sana di sfiga... Me la sono risparmiata. Perfetto, se io invece fossi un vero complottista potrei dire che il Covid non esiste perché non l'ho mai avuto. Io e nessuno neanche. Attorno a me l'ha... cioè è sempre stato qualcosa di evitato, evitabile. Niente, secondo me non esiste. Secondo te non esiste, ma infatti cioè, mi viene da dire che questa cosa di radio, forse l'avevamo già detto, ma ci piace ripeterlo, nacque proprio tutto pensando all'idea del complotto. Il Covid-19 era proprio il primo dei grandi complotti e noi ci ritrovammo. Ne parlammo abbondantemente. Esatto. È una registrazione che in effetti potremmo rilasciare potremmo a un certo punto. E dire, ma sì ragazzi, ma figurati se questa roba arriva, è in Cina, andatevene tutti a fare in culo, noi beviamo le birrette perché... Non succederà mai niente. Il giorno dopo il giorno dopo la radio è naufragata insieme ad essa tantissimi sogni, tantissime speranze di giovani in Erasmus, gente che cambiava lavoro, sono naufragate. Intanto se sentite dei casini dovete sapere che la puntata di oggi è insieme Vai in Stoviglia, L'ora del complotto e Incontri musicali. Infatti introdurremo One Friend, The Francis, che ci farà sentire un po' di musica. Intanto il bar è aperto, a differenza di tutte le altre domeniche, perché sono le 5.30 invece che le 2.30 in after. Quindi welcome rumori, insomma. Esatto, abbiamo tanta bella gente che sta bevendo una birra, noi inclusi. E possiamo dirlo, sta cazzo di primavera è arrivata e come ogni primavera, almeno da un anno a questa parte, si lascia un po' alle spalle tutta questa brutta scia del coronavirus. Ecco, diciamo che abbiamo sdoganato l'argomento per la prima puntata in presenza, non in dad. Esatto. L'ho detto. Cioè, giusto, iniziamo a parlare di coronavirus il giorno in cui ci possiamo sputacchiare in faccia. Esatto. Perché se no, cioè, prima era anacronistico, se non ci si può sputacchiare in faccia, esatto, non si parla di certe cose. E poi lo possiamo fare perché non siamo ancora vaccinati, quindi non abbiamo il 5G nel sangue, non siamo magnetici. Esatto, insomma, esatto. Possiamo farlo con tutta la libertà senza che Bill Gates poi ce l'abbia con noi. Siamo ancora liberi. Facciamo partire il primo pezzo? Dai, col primo pezzo. Data. È che ci sono io che il 5G non sta funzionando, a quanto pare. E poi ci sono io che sono un boomer e non so da dove. It's true. Well, since that day I first laid my eyes on you, love is a crazy game, baby. It's how I feel. I make you all so high, but it takes so long to heal. Sometimes I curse that day when you came along. I was happy, but it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely, since you've gone away. Every day is pain, in the end it's hard to see. Every painful day is all so sad. Now that I've lost the best friend that I've ever had. Song is over. Ecco Manz con le cuffie addosso che prova l'emozione. Pazzesco, ragazzi, sentirsi dentro un mini studio radio è una roba mai trovata. Sento la sua pelle d'oca addosso alla mia. Esatto, ma forse sono i primi brividi del Covid. Sintomi, sintomi. Aspetta che provo a bermi una birra, che così vedo se c'è ancora il gusto. A proposito, ho sentito che sono morte un sacco di persone per aver bevuto l'igienizzante sponsorizzato da Trump, che tra l'altro credo che sia per quello che ha perso le elezioni, perché ha ucciso tutti i suoi followers. Eh sì, è stata una mossa un po' suicidia, credo. Suicidia. È stata una mossa un po' suicida. Non avrebbe dovuto convincere delle persone così mentalmente instabili a fare una cosa così stupida. Poteva almeno dire, se votate Biden e bevete quella roba lì, guarite. Esatto. Almeno... aveva una discriminante, se no invece così niente, si è tirato la zappa sui piedi. E niente, quindi oggi parleremo un po' di Covid. Alla fine è passato un anno e mezzo e la prima cosa è: tu come hai passato sto lockdown? È stato meglio o peggio dell'altro? Un po' di alcolismo, un po' di... il secondo lockdown? Sì, cioè, uguale, un po' di alcolismo, un po' di esercizi, detox. Insomma, una parte di vacanze e una parte di back to work personale e per lavoro, intensa, come l'alcolismo precedente. Sì, anch'io il primo lockdown mi ricordo che ho consumato 3 bottiglie di whisky, però cioè, quando ci investi tipo 90 euro nella bottiglia e dici oggi faccio schifo, tanto non sto spendendo in niente, non sto più uscendo, datemi 90 euro di bottiglia di whisky e rendetemi felice. Ecco, forse è quello che determina l'alcolismo, perché se vai al bar... Punti al più cheap e bevi poco comunque, perché a un certo punto i soldi finiscono. Mentre se sei a casa dici: sai che c'è? Vabbè, ma oggi ho speso 10 euro come al solito. No. Il tuo fegato ha qualcosa da ridire con quella spesa. E poi c'era comunque anche quella storia: bevi e fuma tanto, che il tuo organismo si abitua, si fa gli anticorpi, si protegge, l'alcol è disinfettante, il fumo pure. E il Covid non ce n'è. Ma infatti, guarda, quasi a questo proposito, in realtà avrei dovuto, come ti raccontavo prima, essere qui in Italia 2 settimane fa. Sono andato a bere tante grandi birre e fatto tanto schifo con amici. Uno di questi era il Covid. Caso ha voluto che anche la sua stessa fidanzata fosse negativa, quindi non hanno dei rapporti sessuali o delle pratiche sessuali molto curiose a base di cellophane. Ma che noi non conosciamo. Al corso di rianimazione mi hanno insegnato che esistono queste pocket mask, perché a quanto pare adesso se tu vuoi rianimare una persona non puoi più fare il bocca a bocca, ma addirittura non puoi avvicinarti a un metro dalla faccia. Quindi tu praticamente devi... Boccaglio, con la maschera lo fai. C'è una pocket mask, tu, mentre questo qua è morto da 2-3 minuti e sei nel panico totale, dovresti tirar fuori dalla cassetta di primo soccorso una mascherina di plastica, mettergliela sopra la faccia, c'è una valvolina che impedisce ai droplets di uscire, di entrare, passa solo l'aria. Pensa che roba. Intanto il tipo è già morto e quindi non c'è problema. È morto per Covid probabilmente. Sì, quindi certo. Valendo le statistiche. Certo. Che tra l'altro mi viene da dire, cioè, se uno ha avuto un incidente adesso con tutto il bene, però magari uno è in motocicletta, non penso... Che conti? No, sì, dico, cioè, uno che è in motocicletta. Ah no, tu, che no, no, in motocicletta no, no, Covid, la prima cosa, che la prima cosa ti dico, ci sono delle priorità, okay? Ok? Quindi se uno sta morendo... E invece no. Tu, cioè, dici, se uno sta morendo me ne sbatto che mi prendo io il COVID, glielo do... che tanto almeno si fa una settimana in più in terapia intensiva, trattato come un pascià, è meglio che se muore subito. Eh sì. E invece no, invece no. Devi mettergli la mascherina di plastica, lo lasci morire soffocato da questa mascherina di plastica. Scusa, cioè, tipo un boccaglio funziona, ma cioè sarà tipo un tipo proprio una face mask con una valvolina. Non c'è un boccaglio vero e proprio. In effetti è un problema qui, nessuno, cioè non mi no, in alternativa, in alternativa si fa soltanto il massaggio cardiaco. Il massaggio. Però di solito, cioè, ci sono i casi in cui uno proprio ha bisogno di ossigeno, di inalare, sì, però cioè, tutte queste certificazioni, questi studi dicono che ormai magari basta anche solo il massaggio cardiaco, perché un po' di ossigeno nel sangue c'è. Un po' di ossigeno entra anche grazie alla pressione sui polmoni. E quindi... Ma scusa, ma perché adesso stai facendo una certificazione? No, io ho il corso di primo soccorso, ho dovuto farlo per qua. Sì. Ah sì? Beh, ci sta. Quindi puoi fare anche il bagnino adesso. Non lo so, non so nuotare. Però potrei provare. Mi iscrivo all'albo dei bagnini. C'è un ordine? L'ordine dei bagnini. Guarda, secondo me sì, cioè abbiamo tutelato, sindacato, tutte queste cose. Abbiamo, voglio dire, abbiamo l'ordine della gente che c'ha i, come si chiamano, i diritti sulle spiagge, no? Come si chiama? Per fare i lettini. Ah, beh, c'è l'ordine dei lettinai. Non so se c'è un ordine, però sono i più potenti di tutta Italia, certo. Perché pagano meno tasse di tutti e sono quelli che fanno i profitti più alti. Bella mafia. Comunque, amici complottisti, speriamo, nel caso non ci sia un ordine dei bagnini, chiamateci, fatecelo sapere che noi ci muoveremo. Fondiamolo. Facciamo un'azione. Assolutamente. E quindi vabbè, solo secondo lockdown ti è andato così. Ma a me sai che forse è pesato di più questo che l'altro. Beh, un po' di rottura di coglioni. Cioè l'altro mi sembrava serio. Vero, questo invece vero. Era una cosa che dici, sai che c'è, vero. Questa è una fuffa. Però sai cos'è, mi è deluso anche di tutto quest'anno, deludendo anche del primo. È che sembrava veramente la fine del mondo. La fine del mondo, che dici, manca la carta igienica nei supermercati, sì. Manca la passata di pomodoro e le scatole dei ceci. Ma che cazzo me ne frega, il culo me lo pulisco comunque. Però l'importante tu è che finisca. Noi abbiamo il bidet, ma gli altri se vogliono si fanno la doccia. Non lo dicono, non lo fanno. Però la cosa bella era che sembrava finisse il mondo. Finalmente. E invece non è finito, era tutta una gigantesca presa per il culo. Sono finite le birrette. Cioè, praticamente ci hanno messo in catene e noi che pensavamo fosse una cosa seria siamo stati un anno e mezzo a spararci nei coglioni. Ma infatti sai che ho leggevo l'altro giorno un articolo, adesso c'è Baricco che sta, come si dice, facendo una sorta di collaborazione con il Post. E ha scritto, ogni tanto scrive queste micro storie. Ed è molto interessante perché... ha scritto questo articolo che diceva, ragazzi, noi in realtà non siamo più nel 2021, siamo nel 2025. Per due motivi. Il primo è sostanzialmente che, per assurdo, adesso che noi ricominciamo un po' a vivere, a fare le cose, ci sono tante cose che adesso ci sembrano vecchie. Cioè, e lui faceva l'esempio del cinema, diceva, io mi sono ritrovato davanti al cinema, che magari c'avevo voglia di andarci, però all'improvviso mi è sembrato quasi un sintomo della decadenza, di quello che io stavo vivendo prima. Adesso non lo so se me l'accollo. Boh, e non è una questione di paura di volerci andare, ma no, una roba proprio di quello che è successo. Esatto. È un po' come potrebbe essere il discorso del mo ci sarà il pre-Covid e il post-Covid. Esatto, e in realtà lo stiamo vivendo già. E in realtà sì, e ti viene anche a te da dirlo, perché è un evento nel tempo che segna e scandisce molto bene un prima e un dopo. Sì. Diciamo. Però affanculo. Sì. Cioè, io al cinema non ci penso, non bisognerebbe pensare a certe cose. Tu ci entri se c'hai voglia, non dovresti stare a pensare ma il pavimento è sporco, ma in verità il cinema non mi piace perché come concetto in sé non mi piace. Ti piace in quel momento, buona, entra, se no vai a prenderti una birra. Vero, però c'era un po' anche tutto questo discorso del fatto che tu sei uscito da tutto questo parto anale che è stato questo secondo lockdown. E ti viene da dire, ma è questa la ricompensa alla fine? Cioè, alla fine che abbiamo perso il cinema. Sì, mi sono fatto una rottura di cazzo. La voglia, più che altro, la voglia. Perché l'impero romano, alla fine di tutte queste rotture di cazzo, delle campagne, si faceva i baccanali, si facevano un mese di parti folli e la gente impazziva per un mese. Ed è giusto. E alla fine tu ti sei fatto tutta questa rottura di coglioni per tornare al bar. Non so come dire. Lui diceva questa cosa qua che... Non so come dire, ti lascia un po' l'amaro in bocca in qualche modo. Beh, dici... se devo essere sincero, in effetti, più che l'amaro è proprio un po' anche lo schifo. Il Montenegro. Sì, è il Montenegro, è lo spritz. è lo spritz. Cioè, vedere i fiumi di spritz che corrono... Dico, ma... E noi che volevamo, c'era una discussione che volevamo in generale, oh, ma i musei e la cultura, ma che cultura, ma la gente vuole lo spritz, porca puttana, lasciate chiusi i musei che tanto non ci va nessuno, ci vanno le famiglie perché pensano di essere obbligate a farlo per i loro bambini. Quando sono gratis la prima domenica del mese? Quando sono gratis la prima domenica del mese, se no sono soltanto archeologi e paleontologi, che è un peccato, però la cultura non la promuovi aprendo un museo in pandemia. C'è tutto un discorso da fare sulla promozione della cultura, e invece noi siamo sulla cultura dello spritz. E mi dispiace. C'è da dirlo, sì. E mi dispiace, sì, perché mi piace molto lo spritz. No, sinceramente neanche a me. E, però sì, cioè, questo secondo lockdown è stato proprio un po' una fuffa. Cioè, mi aspettavo... Sì, apri chiudi. Non volevo dire niente contro lo spritz. Cioè, c'è la mia ragazza che è una grandissima fan dell'Aperol Spritz e quindi stavamo facendo... Ma è un po' veneta? Non è un po' veneta. Beh, Ferrara è molto vicino, è molto molto vicino al Veneto. Scende per la forza di gravità fino a Ferrara. Esatto, scende giù. È molto più buono che quello. Scende giù attraverso il Po, attraverso la bassa padana che si intride di spritz di Aperol. Scusate l'interruzione, stavamo dicendo un po' di cazzate. No, dicevamo la cultura, gli spritz, la cultura degli spritz, e nel frattempo l'ora del complotto è diventato l'incontro musicale episodio 28. 27, ma di 5 anni dopo, cioè adesso abbiamo già la barba bianca. Esatto, un po' di loro hanno finito di preparare le loro canzoni perché c'è tutto bisogno di tempo per studiare prima di mettersi in studio e provare. Invitiamo vicino al microfono il nostro ospite che si autopresenta. Ciao a tutti ragazzi, io sono Federico e suono... Ma Federico come? Cognome, vogliamo nome, cognome... E nome d'arte. Sì, codice fiscale anche. Allora, Pogliani, visto che però non so di la io, tutti i miei amici mi chiamano Poglia. Giustamente. Che non dico la traduzione in spagnolo perché non sarebbe... la poia. Omen nomen, si diceva. Vabbè, suono con i The Francis. Grandi Francis. Da tanti anni, suoneremo qua live il 23 di luglio. E iniziamo luglio, okay. con la J. e niente, siamo qua. Adesso vi facciamo ascoltare qualche roba nostra. Il primo brano potrebbe essere da Felicità. Il Manz ci dirà se si sente. Si sente, confermo. Guarda quel che hai, è poco e lo sai, di sicuro non vorrai star lì fermo dove sei. guarda di fianco a te, lì c'è il vicino che ha comprato le ultime novità più tecnologiche, chissà perché. Lui può e non ce n'è per te. Di felicità, ma stai tranquillo che ne abbiamo la soluzione. Tu puoi comprare a rate, son comode, si sa. Tranquillo che ti interessi, non pochi ne prendiamo. Di certo non vorrai perderti le novità. Firma, non pensarci fra tante difficoltà e povertà. Guarda quel che hai, è poco e lo sai, tutti i modelli vecchi, non lo vedi che non segui i tempi? Non hai il giusto stile, le firme più in voga, quei quattro stracci lì, buttali e comprami. Eccoci, abbiamo sostituito prontamente il Manz con Mr. De Francis. Grazie. Che ci voleva spiegare un po' del lavoro di produzione del loro album, che a quanto pare è un lavorone. Sì, è stato, diciamo, molto impegnativo, molto sofferto. Ci sono stati momenti difficili. Ringrazio i produttori per questo. Beh, minchia, ringrazio anche gli altri. Ringraziamo anche gli altri. Sì. ringrazio i produttori per la sofferenza voi che vi hanno provocato. Vedendo, sì, ma esatto. Tirando uno scappellotto. chiunque ascolta e ci conosce sa che è, diciamo, è un'azione abituale, mettiamola così. sicuramente il brano che avete ascoltato è qualcosa che si è evoluto molto dopo la produzione, perché chiaramente è passato da essere un insieme di idee di ragazzi che comunque lo fanno, suonano amatorialmente, da poi, invece... Posso dire una cosa? Sì, certo. Ragazzi di Kezzi, cioè, abbiamo quasi 30 anni. ma qua uno ancora, non può sognare. Uno cerca di scordarselo tutti i giorni. Arriva Manz, Socrate, che dice: guarda che tu sei vecchio, bastardo. Emorroidi. E quello ormai c'è da 10 anni, cazzo. Figa, che sfiga, no? Bevi troppa birra, mangia, devi passare a qualcosa di meno, diciamo... Il gin tonic. Il gin tonic. Esatto. Metti i ghiacciolini direttamente... dalla parte opposta. E niente, quindi chiaramente rispetto al lavoro, al brano che adesso potreste trovare su YouTube, ma non ancora per molto, Questo è. No, lo togliete? Lo togliamo. Fate l'infamata? Certo. Dai, ma piuttosto cambiateli il titolo. Esatto. Aprite un altro canale. De Francas. Cazzo, De Francis è l'unica cosa su cui non abbiamo discusso. Praticamente abbiamo discusso su tutto tranne che sul nome. Cazzo, almeno quello ci teniamolo così. No, perché la produzione vi ha manettato praticamente. La produzione chiaramente, ma anche sotto nostra richiesta. Cioè... No, certo. Poi qua siamo però all'ora del complotto. Dobbiamo vedere tutto in chiave malefica. Vabbè, allora hai trovato la persona giusta, cazzo. Sì. Sì, allora sì, ci hanno costretto a fare un lavoro che potesse, diciamo, passare in radio, perché ci siamo beccati solo insulti per quello che avevamo fatto prima, cazzo. Vabbè, ma questo è quello che pensano loro, però. No. Esatto. E poi è un po' anche il loro lavoro, no? Un po' anche il lavoro dell'insegnante, di chi. Esatto, di chi deve di chi sempre deve criticare. E del produttore. Loro vogliono un prodotto. Che sia. Che sia prodotto. Tale, esatto. Quindi rifinito, diciamo. Esatto. Mentre poteva essere bellissima in ogni caso, e anzi. Quasi avere un qualcosa di più, una traccia più lo-fi, più autoprodotta, certo, diciamo. Sì, certo, ma vi aspettiamo live, quello sarà il banco di prova. Aspettiamo live, number one, 23 luglio. Ah, 23 luglio. Poi, io, fuori da qui, andrei a ascoltarmi la traccia su YouTube prima che scompaia. Esatto. Fate salire un po'. È un po' come quando ti ascoltavi i cani su SoundCloud e poi invece, no? È successo tutto quello che è successo. Lo straordinario, sorprendente album d'esordio dei cani, che era un CD di carta, sì. Grosso così. In realtà dentro c'era un VHS, per farvi capire quanto... Grandi. Ma è questo in che anni, cioè, giusto per capire? I cani nel 2011, secondo me, forse qualcosina... Anche prima, 2010, mi ricordo che l'aveva preso mia sorella, sì. Forse i primi anni. Primi anni di Uni, secondo me. No, di mia sorella, no. Primi anni di mia sorella. Ah, scusa, no, i primi, primi anni di Uni, stavo sì, pensando. Sarà la nostra 11. Prima liceo. No, dici? No, adesso fatti, quindi fact checking. Le cassette a 11 anni fact c'erano. New. Fact checking. Le cassette a quel tempo c'erano ancora, secondo me. Io ricordo che a 11 anni andavo in giro con il lettore CD grosso così, esatto, in tasca. Il Walkman. No, io c'avevo già il lettore CD. C'avevi sia l'editore CD a 11 anni, però un po' prima, tipo 8-9, c'avevi il Walkman con le cassette. C'erano gli iPad che sembravano dei mattoni per costruzione. gli iPod. Beh, però erano belli. Quanto è cheap il marketing di Apple, che cambiano una lettera, via, si fanno un altro prodotto. Regà. Pazzesco. Hanno trovato un modo per incularci tutti quanti. Comunque, diciamo una cazzata giusto per dirla, se digitate, o perlomeno se io digito i cani sul mio Google, mi dice come primo suggerimento, i cani possono mangiare le fragole. Sì, ma a me comunque sorprende che ti sia venuto fuori subito il nome del gruppo e non una foto di un cane. Ma 5G. Perché non guardi le tu sei vaccinato? Non ancora. No. Per quello. Okay. Perché non c'è ancora lo schermo del 5G attorno al telefono. Tu sei tu ormai sei 2011, ma quanto è preciso, mamma mia. Una macchina da guerra. Non gliene sfugge una, cazzo. Comunque potremmo introdurre anche un dibattito un po' così, giusto per il gusto di dibattere sul fatto che appunto stiamo parlando un po' di cultura. Stavamo parlando un po' di tutta questa cosa qua, quanto ci manca andare a un concerto. Comunque, quanto ci manca, sapete anche cosa? Quanto ci manca annusare la puzza delle ascelle altrui. Cioè che adesso è un'idea del cazzo questa. Guarda, a me basta entrare qua dopo il corso di teatro, che devo aprire le finestre, cioè, onestamente, poi mi basta la mia ogni tanto. Però sai, però. I mezzi di trasporto che adesso sono un po' più scaglionati, la gente tende a tenere le distanze, non vai più ai concerti dei pezzi, cioè di fianco magari, capito, il cicciardone grosso. Tu mi sa che non sei mai entrato in saletta dopo che ha suonato una band di metallare, quindi otto uomoni che suonano per due ore là dentro. No, lì fai così, fai così come per strizzare l'aria e la strizzi, cioè. Distillato di metal. Cioè, se passi con lo scolapasta così con l'aria, ti la fai. Esatto. Però esatto. Ci manca, non so. Allora, diciamo che mi mancano di più concerti, se posso dirti. In cui comunque c'era anche più che c'era una componente comunque di odore, esatto, che secondo me abbiamo un po' perso. L'odore del post serata, non so se ce l'avete presente. Sì, ma anche il sapore, cioè la gola tutta un po' spaccata dalle sigarette, un po' di rigurgitino acido per i troppi gin tonic. Da tappare col kebab. Da tappare col kebab. Lo stai facendo nel modo giusto, comunque, diciamo. Assolutamente. Cazzo, però sì, dai, ma speriamo che dai. Beh, quindi vi aspettiamo tutti con le mascherine qua al concerto di The Francis, che almeno sarà. Quante persone possono partecipare a un concerto qui? Due. Quindi cioè, suonano in due. In base i lavoratori, i The Francis e due persone. Esatto. Okay. Che comunque sono i due che ci stanno ascoltando. I... Probabilmente sì. Che quindi si beccano già le canzoni, quindi non verranno. No, vabbè, dai, verranno proprio per sentirci dal vivo. Dal vivo. Manza, dal vivo. Manza tornerà apposta dalla Grecia, ha già comprato il biglietto. Sì, sicuramente. No, vengo in traghetto quest'anno. faccio una Atene Igumenizza Bari e poi Bari a salire. Fai Bari, Foce del Po e poi lo risali. In pedalò. Sì. Va bene, potremmo far partire il secondo pezzo di The Francis, che a me piace molto. Secondo me è un po' la traccia che... un po' più fuori traccia rispetto alle altre, fatemi dire. Sì, dai, diciamo che è un po' un mixing, secondo me, più moderno, fammi dire questo. Diciamo che questo è un lavoro che sì, chiaramente prende molto del nostro percorso, mentre La Felicità nasce come brano scritto agli esordi e poi comunque è stato aiutato dai produttori, questo invece è un brano che vede noi alla fine, dopo 5 anni che suoniamo insieme, e quindi chiaramente cioè, rappresenta anche persone che sono cresciute. E sono state bocciate un sacco di volte agli esami. Non me lo raccontare. E infatti il brano si intitola Una Oublie che si è dimenticato. Esatto, giusto per dimenticarci. Quanti sacrifici avete dovuto compiere su questo brano? Che vi sta tanto a cuore? Non economici, eh? No, ma in realtà. in realtà diciamo che qua, ecco, vorrei spezzare una lancia a favore del complottismo, del controcomplottismo, perché devo essere onesto. Ne abbiamo fatti tanti, però quello che ci ha dato è stato molto bello. Vi racconto questa scena giusto perché è stato bello. L'assolo è stato registrato da me e uno dei due produttori a luna di notte, dopo 3 giorni, 4 giorni che facciamo 10 ore di registrazione, non ce la facevamo più. Eravamo lì e lui che diceva, vai cazzo, suona. E poi è uscito. E quindi in realtà questa volta devo essere pro. Ci hanno cazziato, ma ci hanno cazziato bene. Si sono spesi, dai. Io vi racconto un altro aneddoto, giusto un attimo prima. Era molto divertente andare in sala prove con i The Francis. Sono state delle grandi, grandissime sbronze. Ho tuttora una foto della mia ragazza sdraiata per terra fuori dalla sala prove che non riusciva più ad alzarsi. Corso di rianimazione. Pronti. Come che si chiama? Pocket Mask. Pocket Mask. Pocket Coffee. Un bacio, via, ci scappa. Esatto. Va bene. Ma come si chiamano i produttori, si può dire? Allora, sì, noi abbiamo lavorato con i Bananas Studio, che stanno in Bovisa. Poglia, Bananas, tutte le cose, no? Tutto torna e i nomi, in realtà io li conosco per nome, non so il cognome, però ricordiamoci Bananas di Luca e Peppe. E dov'è che è lo studio? In Bovisa, vicino a Piazza Bausan, che chiunque sia andato al Politecnico conoscerà molto bene. C'è anche l'ambasciata del Pakistan lì a fianco per tutti i nostri amici pakistani che ci stanno ascoltando. Invece ne sa, cioè sempre impegnato. Altro aneddoto, il loro ex bassista di The Francis, una bella sera in Bausa, trova una cazzo di pakistana lì e decide di accollarsela. E perché questo qua era andato in ambasciata del Pakistan perché era in pericolo. Non si sa bene, era scappata di casa, non si è capito. Il giorno dopo morto, colpi di AK-47. No, lui l'ha accudita, l'ha portata a casa, le ha fatto fare una doccia, insomma, tutte queste cose qua. Questa qua però era... non mi ricordo bene se fosse una nobile o una cosa del genere, ma non sapeva fare un cazzo. Cioè, per cui tu le dovevi un po' fare tutto, non so come dire. Cioè, il giorno dopo si è stufato, calci in culo e fuori. Bravo, no, in realtà. Perché a un certo punto Zizan sai scolare la pasta per quanto mi arrivava, fuori dei coglioni. L'aneddoto simpatico di tutto questo è questo amico che gli dice: se hai bisogno di soldi, te li presto. Lei gli dice sì, lui gli dà un po' di soldi e lei gli dice: va bene, ciao. No, mi fa: ho pensato cosa voglio farci. Mi vado a fare un tatuaggio. What the fuck? E quindi citofonata all'ambasciata del Pakistan, prendetevela e grazie tanto. Oppure ricordatevi che se avete bisogno di una mano, di farvi un tatuaggio, Jacopuzzo, se ve li foraggia. Travestitevi da pakistana. Dite che siete in pericolo. Va bene, via con On A Oublié. Grand personne qui pense toujours au chien. toujours un crépuscule, mais ne prie pas nos affaires. On a oublié, on a oublié. Carichermi. Carichermi. Abbiamo perso un musicista, però abbiamo. Aspetta che è partita un'altra traccia. Abbiamo acquistato un po' di. Di combriccole. Di combriccole. Quindi sì. Se sentite rumori in sottofondo. Sappiate. Perché sono gli assembramenti. Vedo 10 persone che si abbracciano. Come faremo? Senza neanche un po' di gel alcolico. Cosparsi di gel comunque, alcolico come un po' come condom al posto che il burro ci cospargeremo di alcol come quella scena meravigliosa di una pallottola spuntata non mi ricordo che numero dove c'è Leslie Nielsen che sta per far sesso con questa procace segretaria e lei gli dice ma io voglio farlo solamente protetto. La scena dopo sono loro due completamente incelofanati che cercano di limonarsi. È sempre stata una delle cose più divertenti che ci stava questa volta. Salutiamo Leslie Nielsen e speriamo che ci servi da lassù, insomma. Anche perché sì, è morto Leslie. Io guardo l'ignoranza. Penso di sì, penso che sia morto qualche anno fa, povero Leslie. Lascio fare a te quello che sa le cose. Va bene. E niente, quindi stiamo continuando a parlare di Covid, di cose brutte che ci sono successe col Covid. In realtà penso che ci siano tantissime persone che ci abbiano davvero sofferto, che abbiano davvero perso dei cari, quindi in realtà noi diciamo un sacco di cazzate, però momento di raccolta. Momento di raccolta, mandiamo un grosso abbraccio a tutte quelle persone che in realtà hanno perso dei cari e che si sono sentite male. Giusto per essere, dico queste cose solo per essere sì, più vendibile, per, cioè, sì, certo. Non perché ci credo davvero. No, ok, ok, a posto. Questa la tagliamo poi in post produzione. no, no, non si ride su certe non cose. Si ride su certe cose. Cioè, vabbè, facciamo, cioè, rendiamolo ufficiale, no? Ufficiale. Visto che ci abbiamo anche riso sopra mentre dicevamo che non ci si ride sopra, boh, un secondo di silenzio? Un secondo di silenzio. Ok, fatto. A posto. E tu hai conosciuto qualcuno che l'ha preso? Io, in particolare mia zia, che tra l'altro è una che polmonarmente non è proprio una campionessa, l'hanno curata a casa, che è sta cosa un poco intelligente che fanno da qualche parte. Come ti curano a casa? Ti curano a casa, ti portano la roba a casa per curarti, ti fanno la roba a casa tua, così tu non vai negli ospedali a attaccare il Covid a 45 persone dentro a una stanza. Hanno portato il casco a casa? Hanno portato la bomboletta, il lettino e le attrezzature. Ogni tot arrivava il medico a casa e controllava, e lei, che è devastata polmonarmente da anni alla sua età, e ne è uscita tranquillamente, perché è beccata in tempo, curata in tempo a casa, non hai contagiato nessuno. C'era una discussione riguardo a queste cose, al fatto di allestire terapie intensive in ospedali, dove già non è tanto che ci siano degli ospedali. Sì. E boh. Vabbè, poi tralasciamo la mala sanità, perché potremmo veramente iniziare a parlare di mafia. No, sì, e poi potremmo veramente cominciare a pensare come cazzo spendiamo i nostri soldi. Vorrei fare un inciso oggi, ci pensavo. In tachipirine. No, aspetta, cioè se tu ci pensi, ci sono state tre misure che determinano la misura dell'Italia. Il righello. Il combasso. E basta, i greci dicevano che... Il goniometro. No, però oggi ci pensavo seriamente. Tu ti immagini un Conte, un Draghi, che va a parlare con la Merkel e dice: no, ascolta, noi i vostri soldi abbiamo deciso che li spendiamo in cashback, i banchi a rotelle e le biciclette. Cioè, tu immaginati questa roba che la gente ha detto: minchia, ma raga, ma no, muovere che non le biciclette, basta, la micromobilità, cioè. Comunque, giusto per dire, non parliamo di monopattini elettrici, per favore, perché mi sale il nazismo. Ma aspetta, io l'ho comprata la bici elettrica. Ah, no, esatto, questo è un aneddoto. No, questo è un aneddoto stupendo. Preparati. Sei svampato. Ma io compro la bici elettrica, è bellissimo, che va e tutto. Dura esattamente un mese, perché poi dopo un mese me l'hanno scavallata. Ah, beh, certo. Quindi lui ha preso il bonus bici per ripagarsi lo scavallo. Esattamente. Cioè, tu rendi conto? E questa è l'Italia, signorina. Esatto. Cioè, questa è proprio l'Italia. L'hanno fottuto. Cioè, la prima te l'hai ricomprata a prezzo pieno? Sì. No, quella lì a prezzo pieno l'ha pagata, l'hanno scavallata, è uscito il bonus bici, ha detto minchia bella, me la ripago. Sì, che poi, okay. voi non sapete, ma il giorno per ottenere il rimborso, cioè, non avete idea di come è funzionato quel sito? No, io l'ho fatto. Io l'ho fatto e mi sono scordato di avere il buono, e quindi per me non sono preso nel culo. Sì, ma insomma, state le becce. Prima ha crashato il sito, poi una volta che ti fanno entrare dentro un sito devi usare la speed, il sito delle poste crasha pure lui, capito? No, ce n'è un quarto, ce n'è un quarto che è stato presentato alla Merkel prima che si spisciasse del tutto dal ridere addosso. No, che no, era no, mentre scivolavo la lotteria degli scontrini. Olè. Ragazzi, io vinco la lotteria degli scontrini, quella di fine anno sono 5 milioni di euro. Sì, vabbè, io sì, se vinco il turista per sempre mi becco 20.000 euro al mese per tutta la vita, no, più 100.000 prima e 300.000 dopo. Esatto. Ma scusa, dopo che muori? E se domani vai a mangiare? Cioè, piuttosto che andare a fare la spesa, spendo tutti i miei soldi in gratta e vinci. Non mangio, però se vinco quello... Esatto. Ma guarda che se domani vai a cenare con Scarlett Johansson, va benissimo. Nel senso che faccio un sacco di follower su Instagram. Sì, esatto. Nel senso che è come vincere la lotteria degli scontrini. Non penso che... A cena e basta. Sì. Se poi succede qualcosa dipende da lei, da te, esatto. Insomma, come vi trovate. Con le distanze di sicurezza, i banchieri in celofanati. Dipende dal sex appeal. No, e comunque se ci pensi queste misure hanno dato un po' una cifra di tutta questa cosa qua, perché potevano spenderle veramente per dire in morfina, per far stare tranquilli tutti. Per dire, che tra l'altro noi chiaramente non foraggiamo e non vi diciamo drogatevi tutti, ma un po' sì. E a me è capitato una volta di provare la morfina medica, anzi due. In ospedale? Una sì, una no. E devo in dire... L'ospedale è in clinica, esatto. Volevi dire. Ma era metadone quell'altra volta. E devo dire che era veramente una cosa incredibile la morfina. La morfina medica è veramente una di quelle cose che dici, capisco perché è medica. Meno male che lo è e speriamo che lo rimanga, perché sennò... C'è stato un nostro amico che si è spaccato il tendine da killer, che ha iniziato a fare delle storie su Instagram dall'ospedale, tutto fatto. Questa è una grande storia. Rocco, salutiamo. Ciao Rocco. Ah, Rocco, quel Rocco. Però no, Rocco Travis Merlo. Sì, no, sì, non quell'altro Rocco. No, no. Rocco. No, ma c'hanno tutti e due un cazzo gigante, se non sbaglio. Così dicono. Così dicono. Così dicono. Ma come, già le mobilità su iTunes? Non è possibile. Questo è il cazzo di Xiaomi che ti mette la 5... Ma no, ma io lo pago anche YouTube Music. Però non siamo, quando saremo su Spotify, ascoltateci là. Che c'è anche lì la pubblicità. Esatto. Lui sta nascendo, è un fiore OSRM masterizzato. Esatto, esatto, è masterizzato. Pronti, partenza, via. Fermati, ascoltami, vedrai che il tempo ritornerà. Della realtà di mille idee che sempre correvan coi sogni. Non dire che ormai ti sei spento, vedrai che la gioia riapparirà. E non cercare mille cose, ma solo l'intesa con gli altri. E poi sentirai che puoi, poi sentirai che vuoi. Comodoro, madonna comodoro, tu sinti tu dormendo che ci muovi in tre fora. Comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fosse per favore. Mangi con privilegi, con le tecnologie di denti tru, di grandi offerte di eventi, ristoranti, di concerti. Comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fosse per favore. Sinti la terra che trema, lo fuoco che corre, gli arde po, l'aria che passa in cefice, e l'acqua che ci porta tutte le lite. Ancora non ci pensi, parli ancora, non decidi, e tendi a chiuderti nell'ombra di tutti quei pensieri, che sono rossi o sono neri, e mai sono bianchi, e sempre ti lamenti di tutti questi sbagli. Vice che rompi palla ancora e vino qua per dei cani, fiore, stena, scena, da sta primavera. Però non è tardi, si sentono gli affanni, il tempo che corre ma noi restiamo calmi. Comodoro, madonna comodoro, lusinde tu tormenta da ci muovi in tre fora. Comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fossa per favore. Mangi con privilegi, con le tecnologie di denti trovi grandi offerte di eventi, ristoranti e di concerti. Ma comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fossa per favore. Ci muovi in tre fora. Comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fossa per favore. Mangi con privilegi, con le tecnologie di denti trovi grandi offerte di eventi, ristoranti e di concerti. Comodoro, madonna comodoro, lusinde sto dormendo che ci muovi in tre fora. Comodoro, madonna comodoro, mangi con privilegi, con le tecnologie di denti. Comodoro, madonna comodoro, cosa ti entra dentro, cosa vuole il tempo. Comodoro, madonna comodoro, ristoranti di concerti. Comodoro, madonna comodoro, ma renda mangia vice manca fossa per favore. No, più che altro per quello, nel frattempo possiamo mettere un bel assolo dei Pink Floyd, come è stato suggerito dal Manz. Pausa sigaretta e poi torniamo al microfono. Se no, possiamo provare a resistere al richiamo della nicotina e sparare un po' di cazzate altri 5-10 minuti. Ma sì, dai, facciamo. Così tra una canzone e lo stacco dei Pink Floyd inseriamo qualche notizia, qualche cazzata, appunto. Ho detto cazzata prima, l'ho riso adesso. Che poi, cioè, stavano dicendo una cosa molto romantica io già prima, che alla fine abbiamo fatto tutta questa cosa, ci siamo sentiti proprio come degli alunni al liceo che fanno la DAD, nel senso che abbiamo fatto tutto sto cazzo di programma, di podcast, di minchiate, che forse è nato proprio dal fatto che non avevo un cazzo da fare. E però l'abbiamo fatto sempre a distanza, con me ad Atene, lui qui. E adesso invece ci ritroviamo nella stessa stanza, berci la nostra birretta, dire un sacco di cazzate e soprattutto senza aver neanche preparato le tracce, preparato le cose, perché non ce n'è bisogno in realtà quando ci sei di persona. E quindi un grande pensiero va anche al fatto che quanto cazzo è bello fare le cose di persona, quanto ci è mancato. Radio Exalge. Radio Exalge, sì. Federico Pogliani mi interrompe durante i miei sermoni, per questo vi beccherò un altro scappellotto in diretta. Spero che l'abbiate sentito. Aspetta che avvicino il microfono alla fronte di Pogliani. E, attenzione, Joe Pitts sta cercando Atom Earth Mother perché vogliono una paglia di 23 minuti e 11 secondi. Niente, dicevamo che era romantico. Che era romantico e che è proprio bello fare le cose di persona. Ma le cose al computer si fanno solo quando si deve e quando ti piace quello che devi fare. Se no è un casino. Infatti, un casino. Pensa a un povero studente che deve farsi la lezione di storia con sta rottura di cazzo della DAD. Scusa. È partita la tua Earth Mother? È partita. Paglietta. Erano molto, io mi leverò dei coglioni. Però a questo punto facciamo dire due fregnacce anche all'altro ragazzo di De Francis, Roberto Pistacchi, ve lo introduco io, che lui ancora non sa pronunciare bene il suo nome. Buonasera. Esatto, beh, cioè, a tutti i nostri amici del sud Italia andiamo un calorosissimo abbraccio dalla Puglia con furore. Iniziamo subito con la questione del sud Italia, bro. Assolutamente sì, siamo due polentoni qui alla radio, quindi come non cominciare così. Bene, bene. Prego, allora, Robby. Il tuo piatto il preferito. Il tuo piatto. Cosa cucina tua nonna? Il mio piatto preferito da bravo terrone è pasta, aglio, olio e peperoncino. No, ma quello solo a mezzanotte. Dovrai insegnarci la ricetta. con un tocco di pane grattato, fritto. Ah, segreto. La mollichina di pane ripassata in padella. Bon. No, allora, le canzoni le ha già fatte ascoltare. Le avete già ascoltate con Federico. Federico, ho sentito che ha detto già un bel po' di tutto. Noi ci stiamo preparando sia con Exalge sia in generale per far uscire il nostro singolo, che è appunto La Felicità, il primo che avete messo in onda. Quindi gli altri erano uno spoiler atomico? Gli altri erano uno spoiler atomico, se non me ne siete, di cui non si doveva sapere neanche l'esistenza. Se non me ne foste accorti, Robby viene da Bolzano. esatto. C'era un cameriere stra simpatico di un ristorante di lì che diceva che veniva da Bolzano Sud. Esatto. Mi avevano chiesto all'inizio se parlare in tedesco o in italiano, però alla fine ho deciso alla per l'italiano. Giusto così. E niente, adesso stiamo decidendo soltanto se uscire con il singolo a luglio o a settembre, per una questione che in mezzo c'è agosto, e anche perché stiamo appunto finalizzando gli ultimi aspetti per il video, di cui appunto potrebbe essere che una parte finisca proprio all'interno dell'Exalge, e quindi ringraziamo ancora. Ma una domanda, quante c'è la scaletta? Pensate di fare tutte le vostre canzoni? Allora, in termini di live, sì, nel senso che nei live cercheremo comunque di suonare tutti i brani, mm-hmm. In modo, anche perché dobbiamo coprire un certo tempo di musica. Io spezzo una lancia a favore di Roberto, nel senso che è un grande intrattenitore, quindi chiunque abbia il piacere di ascoltare un concerto, comunque Robbie è uno che ha il piacere, secondo me, di parlare all'interno delle canzoni, in mezzo alle canzoni, e di intrattenere il pubblico. Cioè non è solo una questione di fare uno spettacolo fino a se stesso con solo la musica, ecco. Esatto, mi fa molto piacere. Sì, mi piace molto comunque perdere un minuto per diciamo, cercare di spiegare un po' quello che vogliamo comunicare, soprattutto perché siamo una band emergente e quindi il pubblico chiaramente non sempre conosce i brani. Io credo che comunque non facciamo... sempre nel vostro caso non sempre cioè sempre, sempre. Non sempre non li conosce e dunque diciamo appunto è bene che comunque si spieghi un po', perché comunque il fine dell'arte della musica è anche comunicare qualcosa, quindi è bene che arrivi oltre al piacere musicale. Quindi sono dei brani ermetici. No. È un'arte ermetica la vostra. Non sono ermetici. Io penso che in tutti, tolto il fatto che cantiamo in 250 lingue, comunque si può dire che la pressione all'interno è costante. La pressione all'interno è costante. Esatto. L'ordine degli attendi esatto. Se è cambiato, non cambia il risultato. A più B, dopo la dopo, C, esatto, C, no, dopo Federico Vogliani vi spiegherà perché ci chiamiamo The Francis. Però dai. Spoilerate anche questa. Ditecelo. Poi vi facciamo un'altra bel pippozzo di intervista a incontri musicali il 23 luglio. Però benissimo. Nel frattime, questa è come dire la. Ma diciamo che il nome. Riscaldamento. Esatto. Il nome, come dicevo prima, è l'unica cosa su cui forse si sono trovati d'accordo sin da subito. Ed è bello perché nasce da un corso di ingegneria a cui ci siamo trovati tutti quanti e dopo il quale abbiamo iniziato a suonare il secondo anno. Ingegneria dei De Francis. C'era magistrale. No, c'era questo magico uomo che ha inventato un oggetto, non lui, ma diciamo che ne ha progettato uno particolare, che è una turbina. E questa turbina aveva un nome. La Francis. La turbina Francis. E noi che cercavamo qualcosa che comunque ricordasse un po' un'idea di famiglia, no? Una cosa... Ma noi ci chiamiamo come The Simpsons. Chi non pensa alla famiglia, allora, con una turbina, cioè, anche Simone Pillon, senatore della Repubblica Italiana e mentore dell'Ordine della Famiglia, pensa alle turbine. Vabbè, esatto, Maria Di Nolfi, allora, cioè, realtà le devo dire che a me dice molto. A me ricorda molto la famiglia Francis, perché mio padre tuttora suole e mostrarmi foto di riviste di turbine idroelettriche di condotti forzati. Che vanno dalle dighe alle turbine e una cosa che mi ha colpito tra l'altro durante l'infanzia erano questa rivista che mostrava anche i fallimenti quando a un certo punto una turbina partiva, demoliva tutto lo stabile. No, oggi no, parliamo di cose felici. Turbine che girano piacevolmente. Esatto. A ritmo musicale. Turbine che generano gioia. Turbine a ritmo di Francis, mettiamola così. Turbine a ritmo di Francis. Che si distingue dall'altra turbina per... La questione di pressione, sì, la componente radiale, di pali, no, qua è portate, pressioni che elaborano. No. Perché ci sono quelle turbine che vanno solo con la velocità dell'acqua, ci sono altre invece che sfruttano anche il fatto che è in pressione. Certo. E invece la Francis è un ibrido, okay. Cioè, sfrutta un po' e un po'. E non è ermetica, come non lo sono i nostri brani. Sentite, ma domanda, visto che siamo anche una puntata un po' a sfondo Covid, e domanda al sondaggione tra quanto quattro... Covid vi siete presi? Adesso, esatto. No, qual è stato l'ultimo concerto a cui siete andati? Vai Joe, il tuo ultimo concerto prima dell'era Covid. Io non vado a concerti. No, non è vero, non ne ho idea, ma penso... alla Buca. Quella di San Vincenzo o la Buca? Sì. Buca. Tipo un ex locale porno, una roba del genere. Ah, ok, allora non è la Buca. La Buca. La Buca Buca. C'era una serata hip hop violenta che mi è piaciuta un sacco. Tra l'altro al ritorno mi hanno fermato gli sbirri, ubriaco marcio, con la macchina che si era spenta perché la chiave si era rotta. E quindi si era staccata la chiave dal circuito elettronico della chiave. Io ero in mezzo a un incrocio alle 2 di notte, ubriaco marcio, con gli sbirri che mi hanno fermato. dicevano: che cazzo ci fai qua? E faccio: guardi, si è rotta la chiave, adesso la sto mettendo a posto e riparto. Però almeno se voi volete provare a spingere, mi fate un favore. E allora si sono messi dietro a spingere. Alle 2 di notte io puzzavo di alcol da 3 metri. Li hai convinti? Li ho convinti e boh, mi hanno lasciato andare. Questo è il bello dei concerti. Non so, ragazzi, l'ultimo, che però l'ultimo concertone, poi di feste varie ce ne sono state, ma l'ultimo che mi ricordo è quello di Red Hot, che credo sia stato, non vorrei dire una cavolata, 2018, esatto, in cui ricordo che veramente è stata una figata, perché quando è iniziato io ero a prendere una birra al baretto, quindi ho detto: cazzo, ma come faccio a arrivare sotto palco? E regà, vi giuro che ce l'ho fatta a furia di pogo. All'ultima canzone ero sotto palco, però ce l'ho fatta, cazzo. Poglia non ha mai bevuto quella birra. No, infatti quella birra è volata. Fertilizzante per me. Era il famoso gel alcolico nei tempi pre-Covid. Allora, l'ultimo concerto che sono andato a vedere, credo che era l'estate prima del Covid, sono andato a vedere tra l'altro un bel concerto di Bruno Mars, che è stata l'ultima data che lui si è presentato in Italia, non so quando si ripresenterà più, è stato un gran bel concerto, anche perché a me lui piace molto e spinge un sacco, sia lui che... Giusto andare a vedere ciò che ci piace, no? Tutti bravi ad andare a vedere quello che ci piace, no? È vero, bisogna andare a vedere quello che non ci piace. Io non sapevo a cosa andavo incontro, però mi è piaciuto. Io non me lo ricordo, mi ricordo che uno degli ultimi fu... No, non puoi fare la domanda, per non prepararti. No, questo è il bello. No, io ricordo che forse uno degli ultimi fu uno dei Coma Cose gratis. Ma in realtà io mi ricordo che la settimana prima che scoppiasse il Covid ero proprio in procinto di spendere tipo 150 euro con un mio amico Jacopo, che saluto, per andarci a vedere due grandi concerti, che ahimè niente, di cui uno era di Michael Kiwanuka al come si chiama, al Vittoriale di D'Annunzio sul lago di Garda. Era stata una bellissima serata, eravamo tutti insieme tra l'altro a casa di Bruschi e fanno i concerti, tanto questo Covid che cazzo ce ne frega, non succede a me. Invece ciao Michael Kiwanuka, un bel giorno verrò a sentirti. Quanto ci mancano i concerti. Bene, quindi in teoria adesso c'è una pausa estiva in cui, come l'anno scorso, tutti dicono che il Covid, uno, è scomparso, due, non ritornerà mai più, tre, si può fare il cazzo che si vuole. L'unica cosa, ricordatevi, verso fine agosto di iniziare, esatto, verso fine agosto, così almeno non ci risucchiamo un anno di nuovo. E poi andiamo, scherziamo, ma noi qui andiamo tutti verso i 30 e gli ultimi due anni sono stati passate a marcire sul divano in ciabatte. E ci siamo svegliati trentenni, mi ricordo mio fratello. Beh, dai, ci sono stati anche tanti tanti cucine, no? Cioè, io ho cucinato un sacco di risotti quest'anno. Sì, io ci penso, mi sono schillato sull'argomento. Cercate la pagina dei De Francis su Facebook, risotti venuti male. Guarda, io sono stato proprio De Francis Mad at Food. Sono stato proprio questo weekend alle grotte di Cthulhu sul lago di Garda. E in quel momento ho realizzato che sto diventando vecchio, certo. Perché non c'erano più sconti per me, cioè io dovevo pagare il biglietto pieno. E quello è il momento in cui realizzi che ormai sei vecchio. Sono passati 26. Hai capito? Cioè, ormai non hai più sconti, non andrai più da nessuna parte fino ai 65. Esatto. L'abbonamento a DM, ragazzi. L'abbonamento a DM. A questo proposito, aggiungo. L'unica è iscriversi a un altro corso. L'unica è iscriversi, esatto. Infatti, aggiungo aneddoto: io ruberò appena la mia coinquilina spagnola se ne va da casa mia la sua tessera della ATM ateniese, perché così posso finalmente pagare biglietti 50 centesimi invece che un euro, perché qua siamo soltanto a 2,50 nel frattempo, mentre tu eri all'estero. Infatti io preferisco prendere l'Enjoy, perché paradossalmente se prendo una cazzo di Enjoy costa meno che prendere l'Enjoy. Certo, brucia combustibili fossili, bro, è normale. Allora prendo gli scooter elettrici, che qualcuno ha già bruciato, no, i combustibili fossili da qualche altra parte. Beh, però costa magari meno della metropolitana milanese. Magari invece l'energia che ha alimentato quel motorino elettrico veniva da una turbina Francis. Esatto. E tu non lo puoi sapere. Ricordatevi, cercate di riciclare le scorregge in scatolette e speditele ai termovalorizzatori in provincia. Non fate fare i soldi solo a Bic con gli accendini, mi raccomando. Riutilizzate il metano. E va bene, direi che è stato tutto molto bello. Dio tra poco se ne va, e quindi Giacomo con lui. Potremmo pensare a una grande canzone finale. Io tra l'altro mi sa che ne avevo. Tu eri preparato, ma vogliamo con Enzo Iannacci, una grande canzone che ascoltavo con mio padre in macchina facendo la l'Aurelia, la strada penso con più buche dopo Roma, era l'Aurelia. E in realtà l'abbiamo messa anche perché tu hai avuto un mini periodo Enzo Iannacci ultimamente. Sì, era ieri. A tutto l'uomo alla mattina pulendo. Veronica! Colazione con osso buco pucciato nel latte. E niente, è stata una grande puntata live, è stato molto bello. E Madonna, io non voglio più farlo a distanza. Sarà brutto. Io, o facciamo domenica prossima puntata mattutina prima che io prenda l'aereo, cioè arrivo qui, mi bevo due birre la mattina, mi carico lo zaino già pronto per partire. Mangia, te ne vai di già. Io domenica prossima ho un impegno e la domenica dopo è il mio compleanno, tra le altre cose, e hai deciso di farlo... Lo faccio in aeroporto, mi compleanno quest'anno. Pensate che bello. Wow. Pensate che bello. Vabbè. Dove le birre costano 6 euro. Esatto, un'acquetta, scusi. E cioè, allora, la cosa bella della Grecia è che l'acqua costa comunque 50 centesimi dovunque tu vada. Cioè, proprio... nella plastica? Sì, il mezzo litro. Ma è nella plastica. Ma per quello che costa meno. Perché comunque costa 50 centesimi, anche a Portofino è nella plastica. Però costa 20 euro. Cioè, datemi l'acqua a 50 centesimi che è un bene di prima necessità ed è una cosa bella. Un'altra cosa molto bella della Grecia è che è una cosa molto brutta, tra l'altro questa è una cosa che volevo dire, perché come voi sapete tutte le volte che mettiamo delle canzoni è perché ci vogliamo fare una gran pisciata, e è una cosa bruttissima della Grecia che tu non puoi buttare la carta igienica nel cesso. No, perché le sezioni dei tubi sono tipo degli stuzzicadenti, più quei geni non hanno mai pensato alla gravità e quindi il tubo lo fai inclinato, no, lo fai piatto. In salita. Esatto, quindi no, quando tu caghi, esatto. La carta igienica sporca di merda, per usare il francese. No, non la butti nel cestino. A questo punto mi viene una domanda che è ovviamente, cioè tu hai detto che la sezione di tubo è comunque molto piccola. Se dici una cosa troppo ingegneristica io ti giuro. No. Non ti preoccupare, no, io mi chiedo, ma se la sezione è così piccola, come ci passa il nostro stronzo? Esatto. Il nostro stronzo si compone a carta igienica più coriacea. Ah. Secondo me passa prima attraverso una specie di turbina Francis, che però è usata come trita tutto. Trita tutto, ecco. Esatto. Invece quando ritorno in Italia è molto bello, perché tutte le volte finisco di fare quello che devo finire di fare e mi viene da buttare la carta igienica in un qualche cestino. Invece dici, e invece no, posso buttarla nel cesso. Ma scusa, ma tutta sta carta igienica buttata in dei cestini, cioè poi non fa una puzza di merda clamorosa nel bagno? Incredibilmente non così tanto. Però è bruttissimo quando tocca a te chiudere il sacchetto con la merda. Se c'è il sacchetto. Se c'è il sacchetto con la merda di tutti quanti. O anche gli assorbenti, chiaramente. Che c'è vai. Proprio. Giustamente. C'è un po' di tutto. Covid diciamo. Free. Forse potreste fare dei cestini di metallo e dargli fuoco direttamente. Ma sarebbe bellissimo utilizzarli per i miei barbecue, ma credo che darebbero. Scaldabagno. Esatto. È un nuovo taste che diamo alla carne, così poi dopo tutto. Esatto. Cioè, comunque, esatto. Sono nuovi modi di sperimentare la cucina, ricordiamoci sempre questo. Ce ne sono alcuni che non vale la pena sperimentare, invece. E va bene, quindi una traccia del Franzus? No, una traccia. Ah, ci vuole orecchio. Grazie. Aspetta che sblocco l'iPad che. Veronica! Metti delle emoticon. Bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose. Ci vuole orecchio. secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio. E dal vivo non si può più cantare, orchestre ormai quattro battute dopo, ti hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono bianco e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché, perché, perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, hey, ci vuole orecchio. Bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco, immerso dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vado orecchio. Certe cose.